lo vedo accanto a me. Nei volti della gente che non ricorda più che cosa è così importante domandarsi più il perché. Vicino a me uno sguardo differente comincia a chiedersi il perché. Una mano che si tende per aiutare un uomo che solo ora riprende a sorridere. Sento dentro me come una voce che dolcemente sussurra pensa solo a te. Diventa dissonante, la mia mente si confonde, non capisce più quanto è così assordante. Io mi fermo per chiedermi dentro me come uno sguardo differente con cui riesco a riemergere. Mi mischio fra la gente, una speranza adesso c'è. Qualcuno la comprende che si può ancora esistere.